urbane.org, che appunto vuole mettere in evidenza all'interno della nostra città tutte queste situazioni in cui appunto si sono svolte battaglie di coordinamento e così via, o comunque rimarcare una memoria antifascista della nostra città. E quella di oggi, l'abbiamo scelto questa domenica proprio perché nonostante ufficialmente la liberazione di Firenze venga celebrata l'11 agosto, in realtà l'11 agosto inizia l'insurrezione per la liberazione di Firenze. Già i giorni precedenti c'erano state diversi combattimenti. Il 5 agosto le truppe alleate arrivano a Porta Romana, anzi i partigiani arrivano a Porta Romana seguiti dalle truppe alleate. L'8 agosto muore Potente, l'11 agosto inizia quella che si può chiamare la vera e propria battaglia per la liberazione della nostra città. Questo posto qui, che è il Casone dei Ferrovieri, è stato uno dei primi, se non il primo luogo di raccolta delle truppe partigiane che varcavano l'Arno, in particolare in questo caso della terza brigata Lanciotto Vallerini. Questo casone è stato costruito all'incirca durante la Prima Guerra Mondiale proprio per dare casa ai ferrovieri. Qui c'erano le case, lì vicino, come sapete, c'è il circolo del dopolavoro ferroviario, e sostanzialmente anche durante il fascismo fu un luogo, diciamo, d'aggregazione antifascista, anche per la sua struttura particolare, come si può vedere. Quello era una struttura che era stata fatta in questa maniera per poter controllare, in realtà poi alla fine divenne un po' un panottico di Foucault sostanzialmente. In realtà poi divenne uno dei punti focali dell'antifascismo fiorentino. E quindi, quando inizia la battaglia di Firenze, è a sua volta uno dei punti, se non il punto principale, di raccolta dei partigiani che passano l'Arno e vengono di qua. Qui c'era una grossa fornitura di libri che venivano accumulati qui, questo già prima del 18 di agosto, un reparto sanitario e delle pattuglie che cominciavano a prendere e arrestare i fascisti e che li portavano qui prima che venissero affrontati il processo regolare dopo la fine della guerra, dell'insurrezione. Tra l'altro la particolarità è che, essendo in questa maniera, era sostanzialmente inespugnabile da parte dei nazisti, e le terrazze che ci sono all'esterno venivano utilizzate come punti di vedetta e come punti, diciamo, d'appostamento per sparare a nazisti. E non è un caso che, non solo per la sua composizione sociale e per la sua, diciamo, conformazione architettonica, ma anche perché era vicino alla manifattura Tavacchi, la quale manifattura Tavacchi era l'avamposto nazista, diciamo, su questa linea del fronte. Si attesta l'11 di agosto, che viene chiamata la linea del fronte del Mugnone. Cioè, quando inizia, diciamo, l'avanzata dei partigiani, i nazisti si attestano su questa linea del fronte l'11 agosto, che sostanzialmente segue la linea del Mugnone e del Terzolle, e che arriva poi lungo l'Afrio, il torrente, che arriva, diciamo, fino alla zona del Salviatino. Qui c'erano già, prima che scoppi l'insurrezione, un gruppo di SAP comandate da Sante Micheletti, che appunto preparava tutto, diciamo, l'apparato logistico per quella che poi sarebbe stata, diciamo, la battaglia per la liberazione di Firenze. Poi appunto arriva la Brigata Lanciotta, arrivano le SAP dell'Olmatello ad Almano, e durante questa battaglia, diciamo, che si risolve soltanto il 18 agosto con la presa della manifattura Cavacchi, cadono anche quattro partigiani che sono questi nomi qui, quattro proprio qui, due in altre parti della città, e che però facevano parte sempre del gruppo che era qui nel Casone dei Ferrovieri, fra quale Enrico Gogo Rigacci, a cui appunto è intitolata la palestra, quella che ora è ospite all'Everson. E nulla, questo è, diciamo, l'inizio Qui diciamo è da dove inizia la controffensiva in città, la controffensiva vera e propria per riconquistare la città e che si dispiega nella parte nord della, della città. E niente, ora si rifà tutti i punti e chiaramente essendo una battaglia che si è svolta prevalentemente lungo la linea del Mugnone, molto diciamo della camminata seguirà questa linea qui. Quello che c'è da dire è che diciamo prima l'ordine dell'insurrezione diciamo parte da le milizie o comunque i comandanti partigiani fiorentini, come diceva la domenica scorsa, cioè, rispetto alla liberazione parigina, in realtà l'esercito diciamo alleato ha sempre cercato diciamo di tirare indietro per non fare in modo che la liberazione della città fosse fatta dai partigiani e dai cittadini della città stessa, insomma.